amore. Espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favore. Por favore. Espresso macchiato, forne o. Oh. Mi amore, espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favore, por favore. Espresso macchiato, espresso macchiato. Por favore, espresso macchiato, forne o. Oh.